appeso in faccia alla porta della loggia. Ve ne era a Genova di simili ritratti per ogni nobil casa, e tutti così fervidi e coloriti, così festosi e fulminanti, che Artemisia stava in sospetto non fosse davvero cambiata la pittura mentre lei stava a Napoli a giocare di ombre risentite, scuro e chiaro, volti fieri, corpi giganti. Qui si dipingono le chiese da capo a fondo, con gran spirito di colori mordenti, con gran prestezza di risoluzioni. Qui le tele spumeggiano di sete chiare, di metalli lucenti, e le carni rubiconde schioccano di salute. Tale è la maestà dei grandi in questa nazione, appresa dal pennello di quel Pietro Paolo Fiammingo di cui si fanno meraviglie anche in Spagna, Rubens. Ma a cambiar gusto e maniera Artemisia non può, che troppo se ne avvilirebbe e mai lo mostrerebbe di fronte a queste dame. Ora la centurione scura chiede alla Lovato se non stian per giungere quelle casse di Fiandra. Tanto che le aspetta, le servono fiori e frutta per un suo gabinetto, e da questi italiani poco di nuovo e di galante si può sperare. Destramente annuendo, la mercantessa osservò che qualche novità anche in Italia si trovava e l'avrebbe provato con la signora Artemisia, che non c'è la pari per donna nel fare un bel ritratto. Se la magnifica signora marchesa favorirà a comandarla, renitenti non erano le dame. Di una loro superba acquiescenza c'era da trar partito, e Giustina, combinando il prezzo, il giorno e l'ora della prima seduta, insinuava grazie di superlativi tutte venete. «Mi umilio, illustrissime, illustrissime!» ripeté meccanicamente Artemisia, strisciando un inchino rigido. Ma la dama non fu ritrattata, che all'improvviso andò a Voltri, e come ritornò Artemisia era già partita, né più se ne fece parola, quando le casse di Fiandra furono schiodate davanti a lei in casa Gaspare. Scelse invece di frutta 12 marine e poi le rimandò perché non le piacevano. Ma Pietra Spinola, seduta sul suo seggiolone sotto il baldacchino contro il sole, nella loggia che tutta Genova poteva vedere, Pietra Spinola di 60 anni fissò la pittrice con occhi di lavagna che bucavano, ascoltò correttamente, a tempo interruppe, rettificò con splendida pedanteria nomi di luogo e di persone. Francia, rifletté informandosi minutamente della strada che la viaggiatrice aveva scelto, e aggiunse piano: sola, sola affatto. Sotto l'acconciatura vedovile di 20 anni innanzi, il suo viso fragile aveva la preziosità di una cenere d'incenso, e, accordandosi alla persona irrequieta, mostrava, coi rapidi moti, un'insofferenza della vecchiaia, domata da una volontà che l'accettava per cimento, anzi la preveniva con foga, con ardore. Giustina era rimasta a casa quel giorno, che la Spinola non l'amava, e Artemisia, sul suo sgabello, si trovò a parlare tanto a lungo come da anni non le era avvenuto. Quando credeva di aver finito, l'accento diritto sul ciglio dell'ascoltatrice, lo stesso che segnava a lei la fronte, le ispirava nuove parole. Non aveva bisogno né di difendersi né di vantarsi, ma parlando ricercava e trovava il gusto e le ragioni del suo lungo lavoro, di quelle imprese virili che sempre l'avevano allettata e tormentata. Nemiche alla sua quiete, fruttandole una fama discussa e tutti quei denari subito spesi più per altri che per sé. Gli occhi acuti, nel cui grigio lucente tante cure segrete e dominate si spengevano, non battevano palpebra per l'attenzione e raccomandavano, con un'aspra carità, di reggere. E resse Artemisia la voce e il discorso, senza commuoversi, sino alla fine, che fu: «Mi determinai partire per chiudere la vita e le opere vicino a mio padre». Altro non disse, che innanzi a una tale donna motivi di sentimento e di femminea debolezza non si potevano esporre sottintesi e assolti in anticipo. Le rimase in gola, confitto come un ago, un «mio marito non è più mio marito» e quell'antico irrimediabile «mia figlia non mi vuol bene», che a nessuno aveva mai confidato né l'avrebbe, se non a questa anziana, cruda e pietosa che mostrava di intendere oltre la parola. E ora, pensando, taceva. Venne una serva, vestita da monaca, portando un vassoio. di bevande e frutta. Recò poi su un cuscino di velluto violetto una lunga ornata pipa e fu congedata da un autoritario brusco gesto della mano ancor bianca, ancora affilata. Con moti precisi e impazienti, la dama riempì il fornello, premette la foglia, maneggiò l'acciarino e accese. Con aspra energia aspirò. Nessuna donna è felice se non è sciocca, sibilarono, ma soffocatamente le labbra sbiancate e sottili mentre dalla pipa, sollevata con grazia, salivano al cielo bianche volute fragranti e facevano pensare al fumo di un misterioso sacrificio. Le delicate palpebre su cui le venoline azzurre segnavano stanchezza e valore si socchiusero al brillio del mare che il fuoco del tramonto trapungeva, crespa per crespa. Con la mano libera dalla cura del fumo, la spinola porse alla gentileschi un bicchiere di sciroppo. Conobbi vostro padre, era uomo grande, voi gli fate onore, concluse alzando la voce, quasi per nascondere ad altri un'intesa segreta, un'accordata confidenza, e quegli occhi scolorati, come per estrema chiarezza di idee o pulitura d'uso, volevano incoraggiare e trafiggevano, ma la pittrice avvertì, oltre quella ferita involontaria di chi maneggia da troppo tempo le armi dell'autorità e della solitudine, un messaggio intenso, l'addio di un animo amico e prigioniero, il solo che valesse la pena di raccogliere in Genova. Le venne fatto di pensare, per analogia misteriosa di valori, all'innocenza, alla purità, a Cecilia. Si inchinò per ringraziare, ma goffamente perché le labbra erano attratte da quella mano giovane e bianca su cui non si posarono. Alla spinola pensava e non al proprio destino né ad Antonio quando la feluca genovese che navigava per Marsiglia si staccò dal molo. Era una piccola imbarcazione da poveri che non badano a soffrire il mare e la misura ristretta delle cose affastellava tra i piedi di ognuno strumenti, suppellettili, rozze, bagagli. E i marinai erano obbligati a scavalcarli con il loro passo di scalzi ogni momento. Questa volta i canti erano di litanie e giaculatori alla Madonna di Savona. Dormire all'aperto sul ponte non era una stravaganza neppure per una donna. Per le donne, infatti, che erano quattro insieme ad Artemisia, due cameriere e una pellegrina che tornava dai santuari di Spagna, avevano accomodato cucce con le vecchie vele ammonticchiate e un paio di amache. Fra loro fu spartita la prima cena, fraternamente, sotto il cielo rosso della sera, e stettero allegre tutte, quasi levate di fresco, di soggezione. Le cameriere dicevano: «Madama sarà quest'ora a celle», con un sospiro di sollievo e di liberazione, ma per abitudine servile vollero che Artemisia giacesse nell'amaca più larga e ce la accomodarono. Pellegrina insegnò preghiere efficaci contro ogni pericolo e distribuì reliquie di Santa Casilda, rarissime. Il faro era scomparso, nero il mare, ma dalla notte trapelava un chiarore che suggeriva lontananze rassegnate in eterno, irrevocabili ricordi. Su questo legno miserello, fra meschina compagnia addormentata, era dolce assopirsi con l'istinto di essere perduta alle speranze, alle ambizioni dei viventi, alla stessa facoltà di soffrire. Forse anche il dolore è un bene che si dovrà rimpiangere. Favoleggiava sognando, rivolta a Pietra Spinola che fuma sotto il suo padiglione, e le pareva che non da sé, ma da lei, partisse questo sentimento così estroso e inconsueto. Agli altri non esistevano che loro due. E come Antonio aveva guardato la mano di Artemisia, sembrava ad Artemisia di iscrutare quella vecchia così sottile e forte, sicché tutto rimaneva del cuore cieco e testardo di Artemisia fanciulla, di Artemisia adulta e matura, si scioglieva in un arcano sbigottimento quasi d'amore per gli occhi e per la mano di Pietra Spinola, anche lei lontana e perduta. «Oimè, oimè!» sospirò svegliandosi e sentendosi non liberata ma spoglia del passato, priva di dolore e di gioia, vuota come una conchiglia. Era giorno chiaro, un silenzioso giorno marino appena nato. Le compagne dormivano, le serve col cipiglio affaticato, la pellegrina col viso coperto da un fazzoletto come una morta. Lo sciacquio dell'onda rotta dalla chiglia della feluca richiamava una quiete silvestre, più immaginata che cognita. Sporgendosi dall'amaca e superando con lo sguardo il bordo della nave, nella scia bianca e verde, vide Artemisia, un delfino che giocava.